Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti alla 13ª puntata del Pinsimonio, che sarà la seconda legata al tema dell'informatica, in cui andremo ad approfondire dei termini usati per definire dei componenti che sono dentro i nostri computer o cellulari, che sono la CPU, la RAM e l'hard disk, termini che abbiamo sicuramente letto molte volte, ma che andare a definire all'interno del funzionamento di un sistema non è cosa elementare per chi non ha troppa confidenza con questa materia. Per cui cominciamo con CPU, che è la sigla di Central Processing Unit, ossia è l'unità centrale di processamento. La CPU è la componente di un calcolatore, che è detta anche processore, che carica le istruzioni dei programmi in memoria, le interpreta e manipola i dati di conseguenza. I componenti minimali di una CPU sono l'unità di controllo, l'unità aritmetico-logica e i registri. Allora, l'unità di controllo legge ciclicamente l'istruzione successiva da eseguire, la interpreta e la esegue, eventualmente leggendo i dati interessati e scrivendo il risultato utilizzando gli appositi registri e cambiando gli indicatori di stato del processore. La ALU invece è l'unità preposta ai calcoli logici e aritmetici. Infine, i registri sono di due tipi. Nei primi vengono memorizzate informazioni indispensabili per il corretto funzionamento del processore, mentre nei secondi vengono memorizzati gli eventuali dati di ingresso per l'operazione da eseguire e i risultati della stessa. I processori sono in grado di eseguire un insieme di operazioni di base da combinare opportunamente e vengono divisi in due famiglie a seconda del numero di registri e di operazioni che sono in grado di eseguire. E fin qui siamo entrati un po' più a fondo dentro la struttura di un processore. Ed ora continuiamo con la RAM, che è la sigla di Random Access Memory, cioè memoria ad accesso casuale. La memoria RAM è comunemente impiegata in elettronica digitale per indicare le unità di memoria a semiconduttori dei sistemi di elaborazione, il cui contenuto può essere modificato molto rapidamente per la memorizzazione di nuove informazioni. La RAM è il luogo in cui sono depositati temporaneamente i dati destinati ad essere elaborati dal processore. E infine andiamo a vedere cos'è l'hard disk, che è innanzitutto un termine inglese che tradotto in italiano significa disco duro. Nei calcolatori elettronici è il disco di memoria realizzato su supporto magnetico rigido e da qui l'italianizzazione disco rigido e anche non asportabile e da qui deriva l'altra denominazione di disco fisso. È caratterizzato dal fatto di avere grande capacità di memoria e dal fatto che questo tipo di memoria è permanente, ossia non viene cancellata dopo l'interruzione dell'alimentazione, a differenza della RAM che invece è un tipo di memoria temporanea. E ora cerchiamo di andare a riassumere il tutto. Praticamente, nel funzionamento di un calcolatore, il processore, seguendo delle istruzioni, richiede al sistema i dati necessari per effettuare i calcoli, che vengono così trasferiti dalla memoria di massa, caratterizzata da una velocità limitata, alla memoria RAM, che è invece più veloce. I dati temporaneamente depositati nella RAM vengono prelevati dal processore per essere elaborati e i risultati vengono poi mostrati a schermo, depositati nella RAM se servono per effettuare calcoli successivi oppure vengono scritti in memoria di massa se devono essere immagazzinati. E per far capire meglio ai miei interlocutori il funzionamento di questo sistema, sono solito usare un paragone, possiamo dire, librario. Ossia, immaginatevi di essere dentro una libreria, che è il computer. Allora, questa libreria avrà degli scaffali, dove sono conservati e depositati tutti i libri. Bene, l'hard disk sono gli scaffali della libreria, in cui sono depositati tutti i libri, e cioè tutte le informazioni, in modo statico e permanente. In questa libreria ci sono dei tavoli dove le persone che leggono possono andare ad appoggiare i libri di cui hanno bisogno per la ricerca riguardo un certo tema. Quindi immaginatevi che la memoria RAM è questo tavolo su cui vengono temporaneamente depositati i libri che ci servono. Per cui noi andiamo a prendere i libri dall'hard disk, cioè dalla libreria, e li mettiamo sulla memoria RAM, cioè sul tavolo, per poi ovviamente andare a riporli dentro gli scaffali, nello stesso posto da cui sono stati asportati, quando non avremo più bisogno. Infine, il processore è colui che legge questi libri ed elabora le informazioni che ne trae, e dopo appunta i suoi risultati su un foglio di carta, che potremmo considerare lo schermo. Quindi questa persona processore va nell'hard disk, cioè nella libreria, a prendere i libri, li appoggia sul suo tavolo, che è la RAM, e poi li legge ed elabora queste informazioni. In seguito va quindi a prelevarli dal tavolo e va a riporli di nuovo nella libreria. Questo, diciamo semplificato in modo molto molto elementare, è come funziona un computer. Quindi, sperando di avervi invogliato a fare un giro in una libreria o in una biblioteca, concludo la 13ª puntata del Pinsimonio e vi auguro un buon proseguimento su Radical Pop. Ringrazio di cuore H che ci ha offerto la base per questa puntata, le cui produzioni sono reperibili su soundcloud.com/hcmc. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko dal lunedì al venerdì dopo la rassegna stampa di Radio Zanardi, oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale, e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. A domani! Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.